L'infamia è sempre fame, sempre fame. L'infamia è sempre fame, sempre fame. L'infamia è sempre fame, sempre fame. Oggi l'infamia mille volte dappertutto, e chi si finge agnello sotto il mantello un lupo con una grande fame. Vedo chi di sciacalli nel buio, iene che attendono che cada, che aspettano un mio errore per nutrirsi di me. Io non abbasso la guardia, non faccio da dessert dopo che un autopasto è stato fatto dei miei sogni. Ancora gli avvoltoi non fanno che guardarmi, di continuo bramando le mie carni, sperando che io faccia un passo falso per lanciarsi. Tutti giù in picchiata, sempre molti contro uno, anche quando quello schiatta per il sicuro, per non rischiare il culo. E non attaccano se sono ancora sano e forte. Schivo trappole, sono vigliacche e menzogne. Li lascio a bocca asciutta, così quelle carogne si devono mangiare altre carogne come loro. L'infame è un bel aspetto al giorno d'oggi, col suo fare mansueto in bambola gli all'occhio e non lo scorgi. Sicché non ti sta dietro che ti incula, allora sì, rendi conto della fregatura. Troppo tardi alle ferite dell'orgoglio, non c'è cura né vendetta, placca la tua ira ora che l'umiliazione prende il posto della convinzione che l'infame ti ha inculcato con l'inganno. L'infame è un codardo, ti spiega la lealtà e l'amore, si comporta da bastardo, traditore. Quindi tieni sempre gli occhi bene aperti, perché il male viene anche da chi meno te lo aspetti. L'infame ha sempre fame, c'era la sua brama di potere dietro alle parole. L'infame dice inganni, crede alle sue stesse palle e aspetta che ti fidi per colpirti alle spalle. L'infame ha sempre fame, cela la sua brama di potere dietro alle parole. L'infame ordisce inganni, crede alle sue stesse falle e aspetta che ti fidi per colpirti alle spalle. E mozza del voodoo, catastrofe e strofe 2009, gioca, senti qua. L'infame ha fame, sempre fame, sempre pare. Una persona affidata così, sempre appare. Qua si mette male, ti mette pare. L'infame il pane quotidiano lo fa mantecare, o fa anche stare in comunità. Non fa che aumentare le infamie dell'umanità. All'unanimità votano un pascià che se ne sta in panciole nella sua immunità. Se nessuno mi dà, questo invece mi toglie. Rinchiuso in sta città con migliaia di voglie, moglie toglie van figli più dei barba papà, più bastardi e conigli anche del loro papà. Questi cloni compà vogliono prendersi il posto di gente come te e me. A qualsiasi costo voglio mettere le mani su ogni pasto. Sono le lettere su qualsiasi tasto. Sono attorno a te, sono il giusto del casto. I belli imbusti che ti parlano di buon gusto e di tatto. Hanno ogni contatto, sanno ogni contratto. Sanno metterla nel culo anche quando è contratto. Se mi chiedono un tratto, non mi vedono a tratto. Mi temono, mi credono un infame mancato. Infami a baratto, siete merda in barattolo, sì. Bastardi rubereste pure a uno scoiattolo. Il gatto no? Certi dicono sia infido, ma è l'uomo il più bastardo, scroccone e recidivo. L'infame ha sempre fame, c'era la sua brama di potere dietro alle parole. L'infame udisce inganni, crede alle sue stesse palle e aspetta che ti fidi per colpirti alle spalle. L'infame ha sempre fame, c'era la sua brama di potere dietro alle parole. L'infame ordisce inganni, crede alle sue stesse falle e aspetta che ti fidi per colpirti alle spalle. Ho visto fermi ingordi sopra i corpi morti banchettare nel disgusto. Ho visto sovvertire la morale, rovesciare ciò che è giusto. E adesso lo capisco perché Cristo l'hanno ucciso e crocifisso gli infami. Si vive come gli animali nella giungla di cemento. Conta poco quanto vali, contano i denari. Conta più la fama tra gli infami che ti fai. Mica quello che sai. È la sporca società che ti insegna l'egoismo. Sta coltivando il qualunquismo tra la gente di ogni età, ceto e provenienza. Ognuno pensa solo al suo, anche sua eminenza. Così la religione in questi tempi è una tendenza. Nazi, fuori di Gabu. Il crocifisso in classe per uniformare e per ricordare che sei diverso è solo colpa di tuo babbo. Sporco infame, abietto parassita, mangia la mia merda tutta quanta finché non è finita. E poi venimi a dire che non era saporita. E ci badato a te, stai leccandoti le dita. La tua vita con l'infame è senza lode, e anche se rode, noi siamo qui per darle prove. Che un infame resta infame finché muore, ma c'è chi muore per il rispetto e l'onore. L'infame ha sempre fame, c'era la sua brama di potere dietro alle parole. L'infame udisce inganni, crede alle sue stesse falle e aspetta che ti fidi per colpirti alle spalle. L'infame ha sempre fame, c'era la sua brama di potere dietro alle parole. L'infame udisce inganni, crede alle sue stesse falle e aspetta che ti fidi per colpirti alle spalle.